E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata particolare perché in Italia è festa, ma non è festa sui mercati finanziari. Meno 3,88% in questo momento Milano, meno 2,40, meno 1, Parigi, meno 1,80 Francoforte e Londra, come sempre in questi casi, non facendo parte dell'area euro, si comporta in maniera diversa, perde solo infatti lo 0,30%. Non sta dando una mano invece Wall Street, che perde lo 0,80%. Dove eravamo rimasti? La manovra di Mario Monti, l'apprezzamento ieri perlomeno da parte dei mercati, poi arriveremo nei prossimi giorni, ve lo anticipo, anche ad analizzare ogni singola voce della manovra, alcuni elementi, non tantissimi come ha chiarito ieri lo stesso Presidente del Consiglio, ma alcuni elementi potrebbero essere oggetto di modifica a partire, appunto, come avete anche ascoltato dai nostri GR, da quella che è la rivalutazione sull'inflazione delle pensioni e l'ipotesi, appunto, almeno per le pensioni sui 1.400-1.500 euro, che vi sia una rivalutazione. Ma dicevo, la giornata oggi più che sulla manovra di Mario Monti è concentrata sulle attese per il vertice di Bruxelles da un lato e nonostante la decisione della Banca Centrale Europea dall'altro. Perché questo è una giornata abbastanza paradossale, nel senso che la Banca Centrale Europea per la seconda volta taglia i tassi di interesse. Mario Draghi, poi lo ascolteremo, ha avuto dichiarazioni anche molto certe, molto nette sulla situazione in Europa, sull'ipotesi definita irrealistica, nessuna probabilità di una fine dell'euro. Eppure i mercati non hanno apprezzato. Cos'è che non stanno apprezzando? Paradossalmente non apprezzano i timori che il vertice europeo si risolva di nuovo con nulla di fatto e quindi che le posizioni sostanzialmente francese da una parte e tedesca dall'altra restino molto distanti. Una strada quindi tutta in salita per il vertice definito salva euro, uno dei vertici europei più importanti, forse il più importante da quando esiste la moneta unica. È paradossale perché nonostante il vertice, nonostante la Banca Centrale Europea, continua a peggiorare la situazione nei mercati azionari e anche in tema di spread. Questo sarà l'argomento principale del programma, quindi Banca Centrale da un lato e Unione Europea, e quindi vertice Eurogruppo e poi vertice Ecofin dall'altro. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora partiamo a raccontare questa giornata economico-finanziaria. Sì, mentre parliamo continua a peggiorare visibilmente, devo dire, non solo Milano ma anche tutto il resto delle borse europee. Meno 4,40 adesso Milano. La peggiore dopo Milano è Parigi, meno 2,70%. Di positivo a Piazza Affari c'è solo l'Automatica, più 2%, e Campari, più 0,1%. Il calo sulle banche e sul mondo finanziario in generale è pesantissimo. Mediobanca perde quasi il 10%, Fondiera Sai il 9,22%, Intesa San Paolo perde l'8,40%, UbiBanca meno 7,40%, come il Monte dei Paschi. Unicredito perde il 7,1%, la Popolare di Milano 6,80%, la Popolare Emilia Romagna al 5,70%, il Banco Popolare cala del 5,60%. Anche Finmeccanica, come avete sentito, perde l'8,70%. In generale stanno ritracciando, come si direbbe in gergo, tutti i titoli e stanno sostanzialmente annullando i guadagni di queste sedute. L'euro invece è stabile, sostanzialmente sempre a quota 1,33 sul dollaro. Stabili anche oro e petrolio, l'oro è in leggero calo a 1736 dollari l'oncia, il petrolio è un leggero rialzo a $100,8 al barile. Quanto al petrolio, è da segnalare che l'ENI, oggi lo ha dichiarato lo stesso amministratore delegato Paolo Scaroni, è tornata al 70% della produzione in Libia che aveva rispetto ai giorni precedenti la rivoluzione anti-Gheddafi. La produzione dell'ENI a questo punto, per quello che riguarda il petrolio libico, è vicino ai 200.000 barili al giorno. Il livello pre-rivoluzione in Libia era di 280.000 barili al giorno. Scaroni ha anche aggiunto che è impensabile che i contratti conclusi sotto il passato regime possano essere rimessi in discussione da quello nuovo. E veniamo adesso a raccontare la crisi 2.0, come l'abbiamo chiamata alcune volte. Che cosa è successo? Partiamo però dagli ultimi elementi. Oltre alla borsa anche gli spread, quindi la differenza tra quanto costa indebitarsi alla Germania e quanto costa invece ai paesi considerati più a rischio, a partire dall'Italia. Lo spread italiano, che ieri era disceso sotto i 400 punti, arrivando a 368-370 punti, oggi è risalito sopra i 400 punti a 424 punti, e quindi il tasso di rendimento del BTP va al 6,31%. Sono saliti tutti gli spread, quello della Spagna a 360 punti e anche quello della Francia a 120 punti. E il paradosso appunto è che a poco o quasi nulla è servito il taglio di un quarto di punto dei tassi di interesse operato oggi dalla Banca Centrale Europea. Il tasso scende così all'1%, quindi il costo del denaro scende all'1%. Draghi, il neo presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha giustificato la decisione descrivendo una situazione sui mercati ancora molto molto tesa, un'altissima incertezza, e tra l'altro ha anche precisato che la Banca Centrale Europea corre in aiuto alle banche lanciando due operazioni con cui dà sostanzialmente liquidità alle banche europee illimitata per 36 mesi. In questo modo, ha detto Draghi, saranno più facili i prestiti tra le banche, quindi la Banca Centrale Europea tecnicamente ha ampliato la gamma di titoli che le banche possono fornire come collaterale, cioè come garanzia in cambio di liquidità. E poi ha detto Draghi, però a questo punto è fondamentale che vi sia un nuovo accordo di bilancio tra i paesi dell'Unione Europea, come dire, la politica monetaria qui si ferma, la Banca Centrale Europea sta facendo quello che può fare, senza un accordo politico e non solo di politica monetaria tra i paesi che fanno parte dell'euro poco altro si può fare. E ancora Draghi ha anche precisato che è molto complicato da un punto di vista legale ipotizzare che la Banca Centrale Europea possa prestare dei soldi al Fondo Monetario Internazionale, che a questo punto li giri ai paesi in difficoltà. Poi Mario Draghi si è concentrato anche sull'Italia, il commento sulla manovra illustrata due giorni fa. I think the developments in Italy have been very encouraging. Penso che gli ultimi sviluppi che riguardano la manovra italiana siano molto incoraggianti. La manovra correttiva è sicuramente molto importante e sicuramente rafforzerà la fiducia. Dovranno però seguire altre misure orientate alla crescita e ad aumentare la competitività. Senza dubbio, ora la questione essenziale riguarda l'attuazione delle misure. Sono state annunciate, ma il processo di conversione in legge è ancora in corso. But the process of legislation and implementation of these measures is still in its course. E ancora per quello che riguarda invece l'ipotesi della fine dell'euro, Draghi ha detto non c'è nessuna probabilità che l'euro possa finire, ma ripeto, nel frattempo è poi successo di tutto, perché l'autorità bancaria europea, European Banking Authority, annuncerà una nuova decisione sui criteri e sulle eventuali esigenze di ricapitalizzazione delle banche europee. Ricorderete che proprio l'EBA, l'autorità bancaria europea, con la decisione dello scorso 26 ottobre, praticamente aveva detto che le banche dovevano contabilizzare i titoli di Stato che avevano in portafoglio non al valore a cui avevano comprati, ma al valore di mercato al 30 settembre. Questo aveva portato chiaramente a una svalutazione, visto che poi tutti i titoli di Stato, quanto a prezzo, erano scesi, aumentando i rendimenti, aveva portato in automatico a una svalutazione di quello che erano gli asset bancari investiti in titoli di Stato. Oggi la situazione va male, nonostante, oltre che la Banca Centrale Europea, nonostante anche Clearnet, la principale cassa di compensazione a livello europeo, abbia abbassato i margini di negoziazione richiesti sui titoli di Stato italiani, cioè quello che devi mettere come garanzia, mettiamolo in questo modo. Ricorderete anche qui che lo scorso 9 novembre, nel pieno della bufera sul debito italiano, quando insomma lo spread toccò i 520 punti, Clearnet aveva chiesto che venisse alzata la quota di deposito addizionale che i clienti devono mettere quando trattano i titoli italiani. Questo aveva comportato sostanzialmente rendere ancora più onerosi i titoli italiani in portafoglio. E veniamo anche alle agenzie di rating, perché insomma, le agenzie di rating oggi si sono mosse con dichiarazioni che lasciano al nostro avviso il tempo che trovano. Praticamente Standard & Poor's, che lunedì aveva minacciato di declassare il rating, cioè quindi il voto di 15 paesi della zona euro, oggi ha precisato che non pensa a scenari di esplosione dell'unione monetaria, e la ringraziamo. Dice che ci sono un 40% di possibilità che l'Unione Europea vada in profonda recessione, e anche di questo la ringraziamo, e viene criticata pesantemente dalla stessa Commissione Europea, che ha detto sostanzialmente: Standard & Poor's ha sbagliato nel minacciare un taglio del rating riservato all'Unione Europea, perché la messa sotto osservazione di diversi paesi dell'Eurozona con una prospettiva negativa non può essere estesa all'intera Unione Europea. E nel frattempo sono tre le agenzie di rating, e mi riferisco a Fitch, ha allentato la tensione sul voto al debito italiano, dicendo in sostanza che la manovra varata dal governo migliora la posizione del debito italiano nel breve termine. Obiettivamente non capiamo la posizione di Standard & Poor's, perché minacciare un declassamento complessivo per poi chiarire oggi che Standard & Poor's non prevede l'esplosione della zona euro, ma che ci sono 40% di possibilità di una profonda recessione, ci dicesse anche le altre possibilità, 40% di profonda recessione, non lo so, 40% di recessione o rallentamento economico debole, 20% di boom economico, non so, sono tutte frasi che servono a pochissimo se non a creare e generare tensioni da parte di agenzie di rating, che sappiamo benissimo, con massimo rispetto per la loro attività e il loro lavoro, hanno anche un piccolo conflitto di interessi in casa, avendo come proprietari, come azionisti di riferimento, anche importantissimi fondi di investimento americani, e fondi non sempre, diciamo, privi di un atteggiamento speculativo. Quindi il primo gufo di oggi va a Standard & Poor's, non se ne abbia male. Anche l'incontro tra il ministro dell'economia americana, ossia il segretario del tesoro Timothy Geithner, oggi è passato da Milano, sta incontrando in questi giorni tutti i leader europei, e ha incontrato anche Mario Monti, una conferenza stampa non lunghissima di cui parleremo anche nella seconda ora del programma. Tra l'altro Geithner ha detto di essere soddisfatto per i progressi europei delle ultime settimane, e ha detto insomma c'è tutto il sostegno americano agli sforzi italiani. Ecco perché definivo, adesso partiamo con il primo tema, la giornata paradossale. Abbiamo da un lato una Banca Centrale Europea che taglia i tassi di interesse, che dà garanzie per una maggiore facilità nei prestiti tra banca e banca, un ministro dell'economia americano come Timothy Geithner che dice che gli sforzi d'Europa li sta facendo, le agenzie di rating che correggono un po' il tiro, soprattutto Standard & Poor's, e un vertice che sta per iniziare questa sera, lo scetticismo è tale che la borsa, man mano che escono queste notizie, va a peggiorare. Adesso il calo appunto del 4,23% con uno spread che è tornato sopra i 400 punti. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora partiamo proprio dal vertice di Bruxelles. Vertice di capi di Stato e di Governo che durerà fino a venerdì pomeriggio, che parte già, diciamo, con nel peggior modo possibile. È come se 3-4 soggetti volessero incontrarsi per trovare un accordo, ma tutti da fuori dicessero tanto non fallirà, tanto fallirà, e infatti il mercato su questo si muove. Le dichiarazioni di intenti però ci sono, dobbiamo anche fidarci di quelle che sono le dichiarazioni. Sarkozy ha ricordato oggi, il presidente francese, che il rischio di un'esplosione dell'Unione Europea non è mai stato così grande. Ha ribadito che bisogna rifondare l'Europa. C'era stata nei giorni scorsi un'apertura anche della Germania, sotto traccia, non dichiarata forse così palesemente, ma insomma la Germania ha fatto trapelare che, visto lo sforzo che sta compiendo l'Italia, a questo punto potrebbe ammorbidire la sua posizione. La Germania probabilmente, da quello che capiamo, si è resa conto che un eventuale fallimento complessivo dell'euro trascinerebbe con sé anche la Germania stessa. Ha chiesto garanzie ai paesi prima di, diciamo, allargare i cordoni della borsa, ma avute queste garanzie, o comunque garanzie che sono in divenire, ha fatto sapere di essere possibile essere favorevole a una revisione di alcune parti dei trattati, a partire dalle politiche fiscali. Anche oggi Angela Merkel ha detto: siamo convinti che l'Europa ce la farà. Sono fermamente convinta che ce la possiamo fare, la Commissione Europea deve avere più responsabilità. Ma insomma, nonostante tutto questo, le borse non ci credono. È tornato a parlare oggi anche l'ex primo ministro italiano e leader del PDL Silvio Berlusconi, da Marsiglia, dove c'è il vertice informale dei leader dei partiti popolari europei. Berlusconi ha detto: la situazione è grave, non si è deciso nulla. Per quello che riguarda gli italiani, sono benestanti, non ho mai avuto dubbi. Noi siamo, sommando il debito pubblico e la finanza privata, il secondo paese più solido d'Europa dopo la Germania e prima di Svezia, Francia e Gran Bretagna. L'Italia è indebitata, ma cittadini benestanti, non dobbiamo quindi essere preoccupati. Poi c'è anche la posizione britannica, perché la Gran Bretagna non fa parte dell'Eurogruppo ma fa parte del vertice Ecofin, e il leader David Cameron ha detto: è una partita da scacchi con 26 avversari. Mi sembra che ci siano abbastanza elementi per collegarci con Bruxelles, dove c'è il corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, Antonio Poglio Salimbeni. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. La domanda è semplice. Io l'ho definita una situazione un po' paradossale. Abbiamo una BCE che si muove come da attese, Standard & Poor's che corregge un po' il tiro, Timothy Geithner, quindi ministro dell'economia americano, che viene in Italia e dà il suo sostegno alla manovra italiana e all'Europa, i vertici, o meglio i presidenti, numeri uno dei paesi dell'area euro, che si incontrano questa sera a Bruxelles, e il mercato, insomma, dà già un segnale di sconfitta, di nulla di fatto. Ma sì, è esattamente la situazione quale è in realtà. La mia impressione è che i mercati, che sui mercati ci siamo molto preoccupati del fatto dell'inversione delle priorità. La serata, la prima serata, forse una notte intera, di discussioni qua a Bruxelles tra i leader dell'Unione Europea sarà su questo dilemma. Modificare o no il trattato europeo per rafforzare la governance, cioè i controlli sulle politiche di bilancio nell'eurozona, questo è il dilemma. Poi ci sono a cascata altri problemi, che sono i problemi del firewall, come si dice in inglese, il muro di fuoco, cioè le difese finanziarie nel caso la situazione peggiorasse. E quindi come rafforzare, dare più dotazione di capitale e più garanzie pubbliche, al fondo salva stati, se e come dovrà intervenire il fondo monetario attraverso un prestito delle banche centrali dell'Eurozona, si parla per esempio di 150 miliardi e così via. E naturalmente, terza questione, il ruolo, la partecipazione del settore privato, cioè delle banche, a eventuali operazioni di gestione del debito in paesi insolventi, cosa che sarà definitivamente alleggerita, cioè il caso Grecia resterà unico. L'agenda politica è: prima si discute se e come modificare il trattato, poi si procede su tutto il resto. I mercati hanno l'ottica esattamente opposta: misure, decisioni subito, poi che si modifichi il trattato, che non si modifichi, è un fatto del tutto secondario. L'importante è per i mercati, secondo me, che le misure concrete di difesa finanziaria dell'Eurozona non restino ostaggio del negoziato sul trattato europeo. E questo è un aspetto. Tra l'altro, vedo una notizia appena battuta dalle agenzie che Finlandia ha respinto come incostituzionale la proposta franco-tedesca di ricorrere a un voto in maggioranza per una riforma del trattato dell'Unione Europea. Cioè, la Finlandia vuole non una maggioranza, ma l'unanimità del voto per riformare i trattati europei. Questo potrebbe essere un altro problema. È sicuro che Draghi abbia anche deluso in qualche modo, lo dico rispondendo ad alcuni ascoltatori al 349-238-6666, perché praticamente chi si aspettava un allargamento anche dei vincoli per quello che riguarda l'azione della Banca Centrale Europea è rimasto un po' deluso su questo, Antonio. Cioè, Draghi ha abbassato i tassi, ma ha chiarito che è difficilmente ipotizzabile che la BCE presti dei soldi al Fondo Monetario, che a sua volta li giri ai vari paesi in difficoltà. No, beh, il punto è la BCE in quanto tale. Draghi si è pronunciato sul fatto se la BCE in quanto tale può o meno prestare al Fondo Monetario. È controverso se possono farlo le banche centrali, le banche centrali le singole banche centrali, certo, in quanto tali. Detto questo, secondo alcuni giuristi non è affatto controverso, si può fare, ma il problema non è tanto il problema è che la BCE non può prestare al Fondo Monetario in quanto non è membro del Fondo Monetario con ogni probabilità, e questo è il motivo. E in ogni caso l'argomento prestito Banca Centrale del Fondo Monetario è sul tavolo dei leader. Su questo ci sono state tra ieri e oggi varie conferme. Ecco, l'altra prego, scusa. Scusate. Il tema dice è importante. Oggi Draghi a Francoforte ha ribadito che se si fanno passi avanti verso una revisione del trattato, ciò darà fiducia ai mercati. Il patto, chiamiamolo patto con 30 virgolette, a destra e 30 virgolette a sinistra, perché la Banca Centrale è naturalmente indipendente, è questo: se è chiaro che l'Eurozona va verso una concentrazione dei poteri di controllo sulle politiche di bilancio, in modo da evitare che si creino gli squassi delle finanze pubbliche cui abbiamo assistito finora, allora la Banca Centrale Europea potrà agire su sua decisione propria, senza alimentare il rischio del moral hazard, cioè diventare la stampella dei governi che non fanno il loro mestiere. Questo è il punto politico. Ecco perché sì, moral hazard, cioè l'azzardo morale è il timore che hanno i tedeschi, ma devo dire non solo i tedeschi, che qualunque garanzia in ultima istanza da parte della Banca Centrale Europea o qualunque altro tipo di garanzia possa in sostanza essere quello che i tedeschi chiamano il dolce veleno per i paesi che sono abituati a essere non così rigorosi sui conti pubblici. Ossia, se tu garantisci in ultima istanza i debiti, a quel punto, e soprattutto le emissioni obbligazionarie, quindi i prestiti che ha richiesto al mercato, i paesi, Italia, Spagna, Grecia, insomma, cito senza ordine di importanza quanto a debito, potrebbero essere indotti a non risanare le finanze, diciamo a tutte, quindi questo potrebbe diventare l'azzardo morale. C'è un'altra notizia che però sta pesando sulle banche italiane, ma non solo, ed è la European Banking Association ha diffuso i dati su quello che dovrebbe essere il fabbisogno di ulteriore capitale, quindi altri aumenti di capitale oltre a quelli già fatti delle banche italiane. Sarebbe di 15 miliardi e mezzo, una bella sberla, cioè una manovra finanziaria, considerato che Unicredit, Intesa e adesso anche il Monte dei Paschi hanno già varato aumenti di capitale. Non vorrei essere malizioso, Antonio, ma non è un po' strano che l'EBA parli oggi, la European Banking Association, Standard & Poor's torni sul tema? Cioè, sembra esserci una sottolineatura pre-vertice nelle poche ore precedenti, quasi a tenere sul fuoco, sui carboni ardenti, i leader europei questa sera. Beh, da parte di Standard & Poor's sicuramente, da parte dell'EBA le modalità della pubblicazione sono state, anche se l'EBA indipendente, sono state concordate con i ministri finanziari dell'Ecofin, quindi su questo non è un problema. Credo, adesso i dati non li sappiamo ancora, ci sono delle anticipazioni o su fonte di un'agenzia estera, Reuters mi pare, ma bisogna vedere se il dato italiano, io credo che il dato italiano non comprenda, cioè sia all'ordo, comprenda anche le ricapitalizzazioni fatte, generalmente quella di Unicredit, perché sennò andremo dai 14, cioè, previsti, tiene conto anche di Unicredit a 21, ecco. Sì, speriamo, lo dico non tanto per Unicredit ma per il sistema bancario in generale. Antonio Poggio Sanbeni, al di là del giudizio dei mercati, che è netto, meno 4,30% in chiusura Milano, meno 2,5% Parigi, meno 2% Francoforte, si salva solo Londra con un meno 0,70%, tu ritieni veramente che il vertice di questa sera e domani mattina, ma soprattutto questa sera, sarà un fallimento e quindi ha ragione chi è andato a vendere mani basse oggi? Oppure, come circola da alcune ore, Angela Merkel è intenzionata a riformare i trattati dell'Unione Europea a costo anche di arrivare a un nuovo vertice prima di Natale. Quindi che in realtà vi sia un'accelerazione sostanziale su una riforma dell'area euro? Ma diciamo, mai dire mai. Qui comunque sia, tutti si rendono conto nell'Eurozona che non c'è una seconda chance, non c'è una seconda possibilità. Oggi a Marsiglia Sarkozy ha detto a un certo punto, nel giro di qualche settimana risolviamo, e lì da lì l'idea che non tutte le cose saranno risolte sul piano del trattato sì, trattato no questa volta. Io penso che intanto devono prendere delle decisioni stasera, perché domani i mercati sono aperti, non è sabato domani è venerdì. In ogni caso c'è lunedì, cioè per fortuna c'è il vertice, comincia stasera, c'è domani e poi ci sono sabato e domenica di salvataggio. Ma lunedì comunque devono uscire fuori con qualcosa di concreto sul piano delle difese finanziarie dell'Eurozona, che poi ci sia per la governance economica, ci sia il trattato, il mezzo trattato, una legge secondaria, è abbastanza relativo per quanto riguarda la fiducia dei mercati. Però e dire adesso è un fallimento, io non me la sentirei. No, però mi sembra anche tu un po' come le borse, molto molto così interlocutorio, dialettico, quasi dubbioso. Cioè dici, devono uscire con qualcosa entro lunedì, ma non è ancora chiaro cosa. Scusami se insisto, ma noi avevamo capito che, almeno questa era stata l'impressione, che Angela Merkel, quindi la Germania, a maggior ragione dopo la mossa e la manovra annunciata dall'Italia, avesse insomma preso atto che c'era una serietà italiana, era l'ultimo paese che mancava l'appello, diciamo, e quello più pesante, e quindi fosse tutto sommato pronta a diciamo, ridefinire alcune delle sue dichiarazioni, ad avere diciamo, un atteggiamento più propositivo e più solidale nei confronti dell'Europa, o no? Sì, ma in termini molto generali, anche Angela Merkel ha bisogno, come il pane, questa è la sua valutazione, della revisione del trattato per convincere il Parlamento, il Bundestag, che con le regole scolpite nel marmo è permessa anche, forse in futuro, anche la solidarietà. Certo che oggi continua a ribadire che l'Eurobond non le va bene. In questo quadro diciamo di regole può darsi che in un altro quadro di regole delle soluzioni diverse di mutualizzazione, di condivisione del rischio sovrano, del debito sovrano per la parte che eccede il 60%, la famosa fatidico tetto di Maastricht, ci possa essere. Si è pronunciato in questo senso per esempio il ministro delle finanze Schäuble ancora l'altro giorno. I saggi tedeschi, i cinque economisti che lavorano con la Merkel lo auspicano, Detto questo, però bisogna cambiare le regole del gioco, questo dice la cancelliera tedesca. Sì, il problema è che per cambiare queste regole ci vogliono 2 anni e poi con rischio di essere impallinati al momento della ratifica in alcuni paesi. Sì, io vorrei ricordare una cosa, con massimo rispetto per la Germania, ci mancherebbe, che però i primi a violare il trattato di Maastricht, quello appunto delle regole scolpite, sono stati loro nel 2005, vado a memoria, Antonio aiutami però, potrei sbagliare, 2003-2004. 2003-2004, infatti, potrebbe dire 2003-2004, sforarono il tetto, c'era il governo Berlusconi, il quale tra l'altro appoggiò, cioè l'Italia, aiutò la Germania nel sospendere le sanzioni che sarebbero dovute partire altrimenti, per evitare l'umiliazione tedesca. Quindi io dico, va bene tutto, però i primi a violare le regole nel 2003-2004 appunto sul tetto del deficit, che non doveva superare il 3% del PIL, furono i tedeschi e poi seguiti a breve giro dai francesi. Grazie Antonio Poglio Salimbeni, che con insomma tutti i dubbi che hai espresso ci hai chiarito in maniera forse oltre le tue intenzioni quello che è il ragionamento che sta facendo il mercato in questo momento, i dubbi che il vertice possa risolversi in un altro nulla di fatto. Arrivederci a voi. C'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, ma questi vertici mi sembrano peggio, sono disastrosi, peggio delle riunioni condominiali. Ora, il parallelo può essere, il paragone può essere un po' forte, però è vero che insomma arrivare anche questa volta a un vertice strateso, strarichiesto, stradelicato, stratutto, con posizioni in cui non si vede il punto di caduta se non quello delle borse che stanno cadendo, ma insomma non si vede il punto di condivisione dove si può arrivare a un accordo. Sarkozy che continua a ripetere oggi attenzione l'euro a rischio, può saltare per aria l'euro, e noi immaginiamo che sotto sotto tema una deriva italiana e greca anche per la Francia. Angela Merkel continua a ribadire che l'area euro è importantissima, ma non spiega concretamente dove vuole arrivare la Germania e quale e che cosa soddisferebbe la Germania, e l'Italia che sta zitta in questo momento perché obiettivamente la nostra risposta ai mercati, ossia la manovra, piaccia o non piaccia, con alcuni limiti che poi racconteremo nel corso dei prossimi giorni quando sarà definitiva, però la risposta l'abbiamo data. Ebbene, è veramente come arrivare a una riunione di condominio in cui ognuno continua a concentrarsi sulle sue cose, quello che si occupa della mansarda, quello che si occupa dell'ingresso, quello che c'è il problema col riscaldamento, e nessuno che si occupa della casa comune. Sì, vedo altri messaggi, ce n'è uno, devo dire che oggi sarà la festività forse, ma c'è un ascoltatore che dice attenzione, Churchill, Stalin e Eisenhower, sì, non era in quel caso Eisenhower, poi ci fu, era Roosevelt, comunque Churchill, Stalin e Roosevelt si sono incontrati una volta sola, non 50 volte. Sì, e anche questo, al di là della battuta, probabilmente un segnale della debolezza dell'area euro. Il doversi vedere così tante volte per risolvere sempre così poco è tipico di una debolezza. Se tu hai progetti e degli intenti comuni, ti vedi una volta, tracci l'accordo, trovi un punto di caduta, una mediazione, disegni, tra virgolette, la nuova Europa e poi basta, no? Basta con Ecofin, basta con Eurogruppo, basta con Marsiglia, Cannes, Nizza. No, vi si vedono per altri motivi. Invece qui è un continuo vedersi senza mai risolvere le cose. Allora, la borsa... Meno 4,30% Milano. Che brutto rientro che ho fatto. Meno 2,50% Parigi, meno 2% in questo momento, anzi ha chiuso Francoforte. Si salva Londra che perde solo l'1%. L'America perde l'1%. Da notare, al di là del fatto che Milano, dove pesano molto i bancari, perda quasi il doppio rispetto alle altre borse europee, da notare, questo lo dico a Frau Merkel, che l'indice di Francoforte, cioè la borsa tedesca, si muove in maniera esattamente parallela alle altre borse europee. Cioè se Parigi perde il 2,50, Francoforte perde il 2. Cioè nel mercato non c'è la sensazione che invece molti tedeschi hanno che la Germania sia una cosa a parte. Infatti quando, su Londra sì, Londra spesso o dimezza le perdite o neanche le ha quando l'Europa perde, ma la Germania no, la sensazione è che essendo le banche tedesche piene di titoli italiani, spagnoli, greci ancora ne hanno, Se viene meno l'euro come moneta unica, viene meno anche la tenuta della Germania. Lo dico col massimo, anche in questo caso, rispetto per i tedeschi. Comunque, Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Che dire, l'EBA ha dato la mazzata finale, forse le banche italiane, ha stimato in 15 miliardi e mezzo gli aumenti di capitale necessari alle banche italiane per appunto avere un, sostanzialmente una liquidità sufficiente. Speriamo che includa già un Unicredit. La include Unicredit, la European Banking Association? Sì, allora, premesso che si tratta ancora di anticipazioni, dati, certo, parziali anticipazioni, comunque sono sostanzialmente 5 gli istituti di credito monitorati per quello che riguarda l'Italia, che sono quindi Intesa San Paolo, MPS, Unicredit, Banco Popolare e UBI. E quindi UBI, Unicredit è fuori. Cioè... Ok, perfetto. Da quello che vediamo, il titolo peggiore però è Mediobanca, meno 10,40%, poi malissimo anche gli altri finanziari, Fondiaria Assai meno 9,60%, Monte dei Paschi meno 9,15%, Intesa San Paolo meno 8,90%, Popolare Emilia Romagna meno 8,40%, Unicredit meno 7,20%, Ubibanca meno 7,12%, Banca Popolare di Milano meno 6,30%, Banco Popolare meno 6,15%. Per cento. E ancora cito rapidamente altri titoli non finanziari che hanno perso parecchio, sono sostanzialmente Finmeccanica meno 9,40% e Fiat Industrial meno 7%, anche Mediaset meno 5%, Diassori meno 5%, Exor, la controllante di Fiat, meno 4,40%, si salvano solo l'Automatica più 2,36% e Campari più 0,20%, Mediobanca e poi anche Fondiaria Assai. Sì, diciamo che sono temi abbastanza legati, perché Mediobanca è uno dei grandi finanziatori di Fondiaria Assai, per cui oltre a tutta la questione relativa al sistema bancario ha pagato anche, diciamo, l'esposizione come creditore di Fondiaria Assai. Fondiaria Assai è nuovamente in difficoltà perché l'ISVAP, quindi l'istituto che controlla un po' le assicurazioni, sembra abbia bocciato l'ipotesi di creare un veicolo dentro cui far confluire le partecipazioni finanziarie di Fonsai, che vanno appunto da Pirelli a Mediobanca, Generali ad altre, e che sarebbe servito sostanzialmente per migliorare un pochettino la situazione di Fondiaria Assai. Secondo l'ISVAP appunto sarebbe preferibile per la compagnia assicurativa un nuovo aumento di capitale. Sono anche circolate alcune indiscrezioni che parlano di ulteriori 500 milioni necessari dopo i 450 milioni di aumento di capitale chiesti solo quest'estate, e per cui oggi Fondiaria Assai, come spesso capita alle aziende che devono o che si scommette che debbano ricapitalizzare, ha perso il 9,64% e il suo creditore Mediobanca gli è andato dietro cedendo il 10,42%. E giustamente hai ricordato il legame che c'è tra creditore e debitore. Finmeccanica, qui però non capiamo bene, c'è un taglio di voto, questo è indubbio. Però il titolo perde tantissimo, anche perché proprio ieri è arrivata la notizia di nuove commesse per Augusta Western, 1,5 miliardi, se vado a memoria, meno 9,40%. Sì, c'è anche Finmeccanica, è un gruppo che per le acquisizioni che ha fatto negli anni passati ha un certo livello di indebitamento. Il fatto che Fitch abbia tagliato il suo rating ha avuto oggi un impatto importante sul titolo, ha ceduto il 9,37%, evidentemente non bastano queste nuove commesse da 1,5 miliardi che hai ricordato tu per risollevare un pochettino il titolo in borsa, che aveva anche altri problemi, scandali e cose varie di cui abbiamo ampiamente parlato nelle settimane scorse. Ancora, per quello che riguarda il gruppo Fiat, qui ci sono trattative in corso con i sindacati, però abbiamo visto andare peggio oggi Fiat Industrial, quindi camion e auto, rispetto a Fiat Auto. Fiat Industrial ha perso il 7%, Fiat Auto il 3,34%, quindi la metà, e male anche Exor. Allora, Guido Maurino, sul fronte, diciamo, di chi si è mosso bene, difficilissimo trovare titoli, oggi c'è l'Automatica più 2,36%, ma citavo anche Fiat, ha perso più sul titolo industrial e quindi camion e auto, meno 7%, pesantissimo il calo, meno 7,1%, che su Fiat Auto, meno 3,34%. Exor male comunque, una via di mezzo, meno 4,42% per la holding che controlla il gruppo Fiat. Guido. Sì, per quello che riguarda l'automatica oggi non c'erano notizie particolari, però il titolo questa settimana si è mosso spesso in controtendenza rispetto al settore dopo che lunedì la società in un'intervista sostanzialmente alla stampa ha fornito alcune stime sul prossimo anno con un EBITDA che dovrebbe crescere oltre quota 1 miliardo e ricavi in crescita del 5%. Ormai il settore dei giochi sembra quindi muoversi in modo anticiclico, nel senso che la gente continua a giocare a prescindere dal fatto che ci sia crisi o meno, e l'automatica con questo più 2,36% si muove con un po' come i titoli difensivi, tanto è vero che vediamo anche un Campari a più 0,19%. Per quello che riguarda Fiat, si è mossa oggi meglio di Fiat Industria e anche della controllante Exor, perché sostanzialmente ha confermato le stime per il 2011 e Marchionne ha anche affermato nella notte dagli Stati Uniti sostanzialmente che prevede per il 2014 di riportare le attività europee in pareggio, e si tratta quindi di una buona notizia per il Lingotto. Sì, su questo vorrei anche, vedo molti messaggi, non si è salvato quasi niente oggi a Milano, volete sapere degli energetici, male anche gli energetici, Eni meno 3%, Enel meno 2,80%, Enel meno 2,70%, ripeto, oltre all'automatica c'è Campari che guadagna lo 0,20%, Pirelli che perde meno della media, meno 0,40%, come Snam Rete Gas meno 0,50%. E l'1% lo cede invece Luxottica, anche Ansaldo STS perde meno del mercato, meno dell'indice, meno 1,30%. Diasorin. Sì, per quello che riguarda meno 5%. Qui c'è una notizia invece. Sì, diciamo che ha seguito un po' le orme della concorrente francese bioMérieux, che opera nello stesso settore di Diasorin, quindi nel settore della diagnostica, e oggi ha lanciato una sorta di profit warning spiegando che l'obiettivo di una crescita organica del 4,5% nel 2011 sarà difficilmente raggiungibile, quindi gli operatori si interrogano un po' anche sull'impatto che può avere su Diasorin, visto che opera in un mercato contiguo. Allora, vedo che alcuni ascoltatori dicono, ma insomma lei dovrebbe anche commentare la Germania. Allora, a parte il fatto che questo è un programma che si occupa della cronaca e dell'attualità economico-finanziaria, abbiamo detto per quel poco che conti la nostra opinione sulla Germania in svariate occasioni, in svariate puntate, non possiamo dire di più. La Germania ha più di una ragione nel chiedere garanzie per un'eventuale riforma dell'Unione Europea, dell'area euro, scusatemi, però deve anche capire che è collegata strettamente, ripeto, l'indice DAX perde il 2%, Parigi perde il 2,5%, quindi la Germania non si comporta mai in controtendenza. Se va male l'Europa e l'area euro, va male anche la Germania. Grazie Guido Marino, Radio Corriere Sole 24 Ore. E ripartiamo dalla giornata che è andata via via peggiorando. La European Banking Association ha dato una mano dicendo che le banche italiane devono ricapitalizzare o devono immettere nuovi capitali per 15 miliardi e 400 milioni di euro, ma la giornata era iniziata bene, è difficile dirlo visto come è finita, ma era iniziata in maniera rassicurante perché c'era stato l'incontro in quello che è il giro di consultazioni che il ministro dell'economia americano Timothy Geithner sta facendo in Europa, l'incontro a Milano tra appunto Timothy Geithner, segretario del tesoro americano, e il neo premier Mario Monti. 349-238-6666 per i vostri sms. Presso il Palazzo della Prefettura di Milano, questa mattina, appunto, l'incontro fra Mario Monti e Timothy Geithner. Sono diversi gli incontri che sta facendo Geithner in questo periodo. Comunque, ha detto che gli Stati Uniti sostengono il Premier italiano e l'Italia in generale per gli sforzi in corso. si è detto soddisfatto dei progressi che ha compiuto l'Unione Europea nelle ultime settimane e ha detto che insomma è al lavoro anche, anche l'America, non solo l'Europa, per rafforzare il cosiddetto firewall, quindi il muro, sarebbe il fuoco di sbarramento, insomma il muro di sbarramento contro gli attacchi speculativi della finanza. Sono venuto in Italia in nome del mio paese per esprimere il sostegno degli Stati Uniti e del mio presidente al vostro primo ministro per le riforme economiche e per gli sforzi che sono in corso. Il presidente Monti si è impegnato per portare avanti un programma molto intenso di riforme, per riportare la fiducia e per rafforzare la capacità dell'Italia di crescere in futuro. Il premier Monti gode di molta credibilità non solo in Europa ma anche a Washington e in tutto il mondo. Oltre a questi programmi di riforma economica in Italia ma anche in Spagna, i leader europei si stanno muovendo per rafforzare le fondamenta dell'unione monetaria e per creare il quadro per un'ulteriore integrazione fiscale e finanziaria. E questi sono requisiti importanti per la fattibilità dell'unione monetaria. I leader europei stanno naturalmente lavorando per rafforzare il firewall finanziario, il sistema di protezione che è essenziale per dare una possibilità di successo alla riforma economica qui in Italia e in tutto il continente. Sono sfide vitali e impegnative e quindi ci vorrà tempo, ma noi e il mondo intero siamo confortati dai progressi delle ultime settimane. E meno male che gli Stati Uniti sono soddisfatti, che hanno apprezzato gli sforzi dell'Unione Europea, che stanno lavorando per creare un fuoco di sbarramento. Dico meno male perché appunto le borse oggi poi hanno chiuso sui minimi, una giornata da dimenticare. L'America non perde così tanto come l'Europa, ma comunque cede lo 0,85%. Diciamo le dichiarazioni del Premier Mario Monti questa mattina dopo aver incontrato il Ministro dell'Economia americano, il Segretario del Tesoro Timothy Geithner. Monti insomma, ha ricordato che la conversazione si è anche mossa sul ruolo di coordinamento che potrebbe avere il Fondo Monetario Internazionale, ma comunque su temi a largo raggio nei rapporti tra economia europea e Stati Uniti. Ho avuto il piacere di avere con il segretario al Tesoro una conversazione a largo raggio sui temi dell'economia europea nel quadro dell'economia internazionale, e ho avuto modo di presentargli gli sforzi che l'Unione Europea e l'Italia stanno facendo. Abbiamo approfondito il tema delle riforme economiche italiane e del decreto legge adottato dal governo italiano domenica e gli ho illustrato il percorso parlamentare e speriamo porti presto alla conversione in legge del decreto per il quale ha manifestato molto interesse. Abbiamo successivamente discusso temi che sono oggetto questa sera e domani a Bruxelles del Consiglio europeo, del summit della zona euro, quindi le tematiche dei passi verso una più stretta unione fiscale, eventualmente con una modifica del trattato, della costruzione di un credibile insieme di firewalls per dare conforto alla zona euro in questa fase delicata e di come la più ampia scacchiera della finanza internazionale, compreso il Fondo Monetario, possa avere un ruolo nel far funzionare in modo armonioso l'intero mosaico in questa fase così delicata. Eh sì, quando ha parlato Mario Monti questa mattina la borsa perdeva poco, pochino, mica il 4,30% che ha perso poi nel finale, e Mario Monti ha anche precisato che poi si recherà a gennaio in visita negli Stati Uniti, una data da definire, una visita del governo italiano alla Casa Bianca. Arriviamo anche alla European Banking Association, che stanno uscendo infatti i dettagli di quanti soldi in più devono mettere le banche europee, ricapitalizzare in sostanza, 144 miliardi, riprendo l'agenzia che abbiamo appena visto perché era impressionante, 144 miliardi di ricapitalizzazione per le banche europee secondo l'European Banking Association. Però vorrei a questo proposito farvi sentire un altro passaggio della conferenza stampa di oggi di Mario Draghi, quella in cui ha annunciato il taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli all'1%, perché dopo aver ribadito l'alta incertezza sui mercati, l'aiuto alle banche con prestiti a 3 anni che renderanno più facili i prestiti per le banche, aver tagliato la stima di crescita nel 2012, l'Europa non andrà farà un meno 0,4%. Draghi ha anche detto: attenzione, legalmente è molto difficile che la Banca Centrale Europea possa utilizzare il fondo monetario, possa prestare dei soldi al fondo monetario, che poi il fondo monetario gira o girerebbe ai paesi in difficoltà. The point here is that it's legally complex, but the spirit of the treaty is that one cannot channel. Il punto centrale è che è legalmente molto complicato ipotizzare un prestito da parte della BCE al Fondo Monetario Internazionale per finanziare i paesi dell'area euro in difficoltà. Lo spirito del Trattato Europeo è che vieta alla BCE di finanziare i paesi membri. Se questi prestiti, ad esempio, fossero destinati dall'FMI a paesi come Cina e Indonesia, andrebbe bene. Ma se i prestiti fossero indirizzati a paesi della zona euro, allora non sarebbero compatibili con il Trattato. Non dimentichiamo che la BCE non è un membro del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo un trattato che vieta di finanziare gli Stati membri, quindi la questione dell'uso dell'FMI come canale di finanziamento è legalmente molto complessa. Dobbiamo sempre avere in mente l'obbligo di rispettare lo spirito del trattato. Il trattato chiarisce il nostro mandato, ossia mantenere la stabilità dei prezzi, e chiarisce che non si possono finanziare gli Stati. Sono vecchio abbastanza da ricordare che quando il trattato è stato stilato, a inizio anni 90, i rappresentanti di alcune banche centrali allora presenti stavano effettivamente finanziando gli Stati. E abbiamo visto le conseguenze di queste azioni. Ecco perché, in un certo senso, il trattato rappresenta la migliore tradizione della Bundesbank, dove è ben chiaro il divieto di finanziamento. That's why, in a sense, this treaty embodies the best tradition of the Bundesbank, where this prohibition of monetary financing has always been there. Quindi garantisce anche una continuità, Mario Draghi, con quella che è stata la lunga tradizione della banca centrale tedesca. Bundesbank o non Bundesbank, le notizie che arrivano dalla European Banking Association, dall'Associazione delle Banche Europee, sono pesanti quanto a necessità di ricapitalizzare, quindi di mettere nuove risorse. 114 miliardi il bisogno per le banche dell'Unione Europea. E stanno arrivando i dettagli: Unicredito deve fare 7 miliardi e 9, UbiBanca 1 miliardo e 4 praticamente, stanno uscendo volta per volta, ve le leggeremo tutte quante assieme. Ho visto anche una notizia sul Banco Popolare. Intanto ringrazio per averci raggiunto in studio Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. Tu oggi in un articolo sul giornale ricordavi anche, eccola qua, il Banco Popolare deve ricapitalizzare per 2 miliardi e 7. Gli errori fatti nel passato, nella gestione di questa crisi, che spesso abbiamo ricordato, ci fu anche un errore nel richiedere, per esempio, che i titoli di Stato venissero contabilizzati dalle banche secondo il valore di fine settembre, non secondo un valore un po' più medio, no? Però sì. Oggi mi sembra che ci risiamo a giudicare dal mercato. Sì, a me la decisione dell'EBA di stasera, che ancora sta uscendo, il tempismo quindi è straordinario, cioè si devono incontrare i paesi dell'area euro per cercare di riformare i trattati, e tu te ne esci con la stima di 114 miliardi di aumento di capitale. Perfetto. Sì, infatti a me questa decisione ricorda un po' quella frase di Massimo di Nanni Moretti, quando diceva facciamoci del male, perché la decisione della Banca Centrale Europea, presa un mese fa, adesso un paio di mesi fa, era di imporre alle banche una ricapitalizzazione complessiva in Europa di 106 miliardi, proprio perché le banche dovevano portare al valore di mercato tutti i titoli di Stato che avevano in bilancio, e a quel punto ricapitalizzare in base a tutte le perdite che stavano subendo. Quella decisione era stata molto osteggiata da tutti perché aveva un effetto boomerang pazzesco, perché essendo in questo momento la ricapitalizzazione, quindi l'aumento di capitale, è difficile, le banche hanno un'altra scelta per portare i coefficienti patrimoniali, diciamo la forza vendere finanziaria, titoli di Stato. Vendere titoli di Stato oppure